Ad alta voce, edizione 20 anni. Galatea Ranzi legge Panorama di Tommaso Pincio. Agosto del quarto anno di corrispondenza. Una bottiglia di birra vuota, un posacenere sporco con 5 mozziconi tutti di canna, un accendino di plastica rosso, un reggiseno bianco, una camicia bianca, una boccetta contenente un medicinale liquido, etichetta illeggibile, 2 pasticche rosa, un asciugamano rosa, una copia del diario londinese di James Boswell, un rossetto. Ottavio Tondi, Quaderni del letto. La premessa è nota. Nel 1787, Jeremy Bentham, architetto utilitarista, ideò un nuovo tipo di prigione. Un edificio circolare simile a un pozzo, al centro del quale era collocata una torre di sorveglianza. Le celle, disposte lungo la circonferenza dell'edificio, erano sempre illuminate. I prigionieri vivevano nella consapevolezza che il guardiano potesse osservarli in qualunque momento. Ignoravano però se e quando li stesse davvero osservando, perché la torre, sempre in ombra, consentiva al guardiano di non essere visto. L'incertezza metteva il prigioniero nella terribile condizione di sentirsi sempre osservato, anche quando non lo era. La prigione perfetta. Per quanto vigile, prima o poi un guardiano si distrae, offrendo al prigioniero la possibilità di sottrarsi al controllo. Nella prigione perfetta di Bentham, che il guardiano si distraesse era in fin dei conti irrilevante. La sua figura era del tutto ideale, simbolica, non sussistendo alcuna reale necessità di essere vigili. In teoria, il guardiano avrebbe potuto dormire tutto il tempo o lasciare la torre ogni qualvolta ne avesse voglia. In teoria, se nella torre non ci fosse mai stato un guardiano, non sarebbe cambiato nulla, perché il vero guardiano non era l'uomo appostato nella torre, ma il prigioniero. Vivendo nell'incertezza, il prigioniero si sorvegliava da sé, diventava il guardiano di se stesso. Il principio di Panorama è identico. La sua grafica ha la stessa struttura del panopticon di Bentham. La parete circolare del pozzo corrisponde allo schermo del dispositivo attraverso il quale si accede al social. La torre di sorveglianza è idealmente collocata al di qua dello schermo, negli occhi dell'utente, il quale utente può esplorare i profili di Panorama a suo piacimento senza che gli altri sappiano se e chi li sta osservando. Un insieme di comandi consente di scorrere in ogni lato la parete del pozzo nel quale sono collocate le celle dei vari profili, nonché di ingrandire a piacimento ogni singola cella. Per ovvie ragioni, i gestori della piattaforma evitano di ricordare che l'edificio concepito da Bentham era una prigione. Le celle non vengono chiamate celle, ma viste. Chi si iscrive a Panorama ne accetta le condizioni d'uso, tra le quali è previsto l'obbligo di rendere disponibile alla vista degli utenti un ambiente della propria casa. Quando venne a scoprire questo dettaglio, Tondi ebbe un sussulto di rigetto. «Mi stai dicendo che chiunque potrà spiarmi 24 ore su 24?» domandò agitato a Mario Esquilino. «Non agitarti, è un obbligo puramente formale. Basta una webcam esterna. La terrai sempre accesa, ma puntandola dove ti pare, contro la finestra, contro il soffitto, contro una parete bianca. In teoria c'è il rischio che ti segnalino per non esserti offerto la vista altrui, ma è un'eventualità rara. Nessuno ha interesse a smuovere troppo le acque in questo mondo. Tutti vogliono vedere tutto, proprio perché si ha sempre qualcosa da nascondere. Io non ho una parete bianca», considerò dubbioso Ottavio Tondi. Mario Esquilino si guardò attorno. «Vorrà dire che la punteremo contro qualche libro». Sullo schermo del computer che Esquilino aveva appena installato e collegato alla rete, comparve la porzione di libreria inquadrata dalla webcam. Nulla di così segreto o imbarazzante, come puoi vedere. Solo qualche dorso di libro, per giunta mal illuminato. Nessuno verrà mai a sapere niente di ragazzine romene o altre porcherie. Tondi fece una smorfia. «Dici che funzionerà?» domandò guardando i suoi libri nello schermo, garantito, come un coltello caldo nel burro. Reso cerliero dall'erba, Tondi aveva confidato nuove ansie e preoccupazioni. La sua economia era ormai un sistema entropico, tutte uscite e niente entrate. Quanto poteva durare a quel modo? Che avrebbe fatto quando non avrebbe più avuto libri da vendere al mercato nero? Esquilino gli aveva domandato perché non riprendesse il lavoro di un tempo, leggere manoscritti. «Nessuno stampa più niente», aveva obiettato Tondi. «Per chi mai dovrei leggerli? Per quale editore?» Esquilino si meravigliò. Possibile che dovesse spiegargli sempre tutto. Non c'erano più editori, non c'erano più librerie, né la letteratura degna di un tal nome. Nessuno leggeva più, tutto vero. Ma il fatto che nessuno leggesse più non significava che nessuno scrivesse. Le persone scrivevano come e più di prima, solo che erano condannate a tenere i loro inutili romanzi nei cassetti. E proprio qui entrava in scena lui, Ottavio Tondi, il grande Ottavio Tondi. Tra quegli scrittori che non potevano aspirare più a nulla, ce n'erano sicuramente molti, se non moltissimi, disposti a pagare pur di avere qualcuno che li leggesse, qualcuno che gli desse un parere. Non vedo perché dovrebbero pagare. Cosa se ne fa uno scrittore di un parere che non serve più a niente? Niente. Proprio per questo non può farne a meno. Perché se lo può infilare in quel posto. Cosa te ne fai dell'oroscopo o di una seduta di analisi? Le persone vogliono essere giudicate. Hanno un bisogno disperato di sapere cosa si pensa di loro. E se nessuno glielo dice, pagano pur di saperlo. Uno scrittore non fa differenza. Paga purché qualcuno lo legga. «Non so», aveva detto Tondi. «E comunque non leggo più, non posso». Quindi gli aveva spiegato quale fosse il problema. «E con ciò vorrei mica perdere tempo a leggere manoscritti di merda. Ti inventi qualcosa. Le solite frasi, i soliti falsi complimenti che si fanno in questi casi. Saranno loro a dirti quel che si aspettano da te al momento di darti il romanzo. Non hai che da memorizzare e ripetere con parole tue. Le persone vogliono essere giudicate, ma non come le giudichi tu. Vogliono essere viste come si vedono loro. E togliti dalla testa che sarebbe immorale. Non c'è nulla di immorale nel dare a una persona ciò che desidera. Faresti solo del bene. Li renderesti felici». Esprimendosi in questi termini, Esquilino parlava in fondo come avrebbe potuto parlare Jeremy Bentham. L'utilitarismo, la dottrina filosofica a cui questi si ispirava, dava una definizione del bene per nulla dissimile. «Bene, diceva l'utilitarista, è tutto ciò che aumenta la felicità degli esseri sensibili». Era ovviamente anche il fondamento di Panorama. Lo slogan col quale il social si presentava e seguita a presentarsi agli utenti, «Il mondo ai tuoi occhi», è una perfetta realizzazione utilitaristica. L'appagamento dei sensi. Cosa può chiedere di più un essere sensibile? Offri a un uomo la possibilità di vedere e avrai un uomo felice. Fare felice una persona non è esattamente fargli del bene, è vero. Ma in questo mondo, di questi tempi, in quanti fanno ancora del bene? Nel piano di Esquilino, Panorama doveva risolvere un altro problema di non poco conto. Dove trovare scrittori ansiosi di essere letti? Negli ultimi anni, a parte le ragazze dell'Eur, Tondi non aveva più avuto relazioni con esseri sensibili della sua specie. L'idea era più o meno la seguente: che sia la montagna a scomodarsi, vada lei da profeta. Una volta entrato nel mondo di Panorama, Tondi avrebbe dovuto soltanto aspettare. «Il tuo nome non è stato dimenticato», disse Esquilino. «Non appena si spargerà la voce che sei su Panorama, saranno gli scrittori a contattarti. e ce ne sono quanti ne vuoi su quel social, te l'assicuro. Non saprai a chi dare i resti. Le cose andarono molto diversamente. Nessuno si fece mai vivo per proporre un manoscritto, ma l'insuccesso non contrariò più di tanto Tondi. In verità, passate un paio di settimane, smise di pensarci. L'impatto con quel mondo nuovo, con quella cosa fluida e avvolgente che per lui era il web, gli fece dimenticare del tutto il motivo per cui aveva accettato di entrarvi. Per quanto parlare di web è forse improprio, fin da subito, infatti, la navigazione di Tondi si limitò alla sola esplorazione di panorama. A forza di scorrere il muro di celle, le viste offerte dagli altri utenti, perse ben presto la cognizione del tempo. E non c'erano soltanto le celle. Il social offriva la possibilità di pubblicare contenuti di ogni tipo, foto e pensieri personali, foto e pensieri pescati altrove, articoli, video, musica. Molti dei contenuti provenienti dal mondo esterno, dal resto della cosa fluida, non erano per nulla superficiali. Riguardavano la cultura, la politica, l'attualità, questioni che avrebbero meritato attenzione. Tondi si rese tuttavia conto che di essi gli importava poco, se non nulla. Sul momento si entusiasmava. Che cosa interessante, si diceva. Più tardi la guardo meglio, aggiungeva. Ma finiva puntualmente per non guardarla più. E che usasse il verbo guardare anziché leggere o ascoltare era significativo. Che il contenuto in questione fosse effettivamente un video era irrilevante. Tondi diceva guardare anche quando si trattava di musica o di un articolo. E pensare che la cosa fluida gli stava offrendo la straordinaria opportunità di tornare a leggere. Lo schermo non gli scatenava infatti lo stesso senso di rigetto che lo teneva lontano dai libri. Avrebbe potuto scaricare romanzi, tornare a immergersi nella letteratura, ma non lo fece. Era troppo attratto dall'universo di minuzie e sciocchezze degli altri utenti. Riflessioni banali, a volte anche idiote, foto di animali domestici o di pietanze appena cucinate, parole e immagini tanto intime quanto risibili, l'insignificanza suprema, eppure quell'universo inutile lo stregava. Avevano ragione a chiamarlo panorama. Proprio di questo si trattava, dell'umanità fatta paesaggio. Era come accendersi una sigaretta e affacciarsi alla finestra. E quando mai importa su quale paesaggio si affacci la tua finestra, quale vista ti si offra, potresti passarci comunque le ore. Anzi, più la vista è scialba e vuota, più ti incanti, perché in realtà non hai bisogno di guardare qualcosa, hai bisogno di perderti nel tuo sguardo. Una forma di meditazione. Ottavio Tondi si faceva una canna e fissava lo schermo, cadendo in uno stato di accidioso trasognamento che interrompeva sempre e soltanto per motivi esterni alla sua volontà: il telefono che squillava, la finestra da chiudere per una corrente d'aria fastidiosa, il bisogno di pisciare. I suoi pensieri seguivano andamenti ondivaghi, confusi, spesso slegati da ciò che vedeva. Non erano infrequenti i rovelli paranoidi tipici della cannabis. Per esempio, gli succedeva di pensare a un monito di Fedro. Non è incluso nelle memorie delle cose lette, ma viene citato in un paio di messaggi a Ligeia Tissot. Non ricordava se il Fedro in questione fosse l'ateniese o l'epicureo o il favolista, né era in grado di citarlo alla lettera, ma il concetto era semplice. Il troppo vedere conduce alla follia. Correva davvero un pericolo simile? Difficile rispondere. Nel frattempo seguitava a guardare. Non sempre però. A volte, invece di guardare, si lasciava irretire dalle conversazioni che prendevano vita sul social, anche se definirle conversazioni è un eufemismo. Spesso e volentieri si trattava piuttosto di litigi, scontri furiosi il cui scopo di fondo non sembrava affatto quello di illustrare un proprio punto di vista, bensì di screditare l'altro. Non vi erano argomenti particolarmente insidiosi. Nelle discussioni su panorama sembravano tutti l'oretta buia. Ogni pretesto era buono per aggredire, insultare, sbeffeggiare. Un innocente commento sulle condizioni meteorologiche valeva quanto un attentato terroristico all'altro capo del mondo. Nulla era troppo innocente o troppo distante per scatenare una guerra di opinioni. Tondi trovava affascinante osservare le persone annientarsi a vicenda, le alleanze tramutarsi in odio viscerale e gli odi viscerali tornare a essere momentaneamente alleanze perché un nuovo e più viscerale odio era apparso all'orizzonte. La comunicazione violenta, lo sappiamo, è una piaga presente anche in altri social, nel web in generale. Negli altri social vengono però offerti mezzi di contenimento e difesa. È prevista la cancellazione dei commenti fastidiosi o insultanti e nei casi estremi il ricorso al rimedio estremo, l'eliminazione del molestatore dalla cerchia dei propri contatti. Niente di tutto ciò è concesso nel mondo di Panorama. Qualunque cosa si scriva o si pubblichi è per sempre. Né vi è possibilità di allontanare chi non ci va a genio. Il solo modo di affrancarsi è quello di non navigare più, perché non è concessa nemmeno la possibilità di disattivare il proprio profilo. E spesso quel che viene pubblicato su Panorama rimbalza in altri luoghi del web. Chi chiude con Panorama, chiude con tutto. Si taglia fuori. Niente più connessione. Esquilino non gli aveva parlato della spietatezza insita in questo social. Fu un aspetto che Tondi apprese da sé, patendolo anche sulla propria pelle, sebbene in un'unica occasione, quando, ancora neofita, incappò in una conversazione su Gloria Stupenda. Chissà per quali vie e chissà perché qualcuno aveva ripescato una vecchia polemica sull'opportunità di assegnare premi letterari ad autori dall'identità incerta. Tondi non poté trattenersi, intervenne e la sua opinione venne contestata all'istante. Lui tentò una replica, cercò di spiegarsi meglio, ma a quel punto le obiezioni persero qualunque logica. Alcuni tirarono in ballo questioni che non c'entravano nulla, altri fecero battute di spirito, anch'esse fuori tema, finché qualcuno non si rese conto che Ottavio Tondi era Tondi il lettore e si passò agli attacchi personali. Gli scrissero parole di tale ferocia che al confronto le frecciate di Loretta Buia parevano svenevolezze da cioccolatini. Tondi avrebbe voluto rispondere a tono e ci provò anche all'inizio, ma era solo contro tanti. Nessuno prese le sue difese. Gli intimarono di tacere, gli dissero di nascondersi, gli dissero che avevano fatto bene a massacrarlo di botte, anzi no, avevano fatto male perché non gliene avevano date abbastanza. Gli dissero di ringraziare Dio di essere ancora vivo. Dopodiché gli aggressori passarono a parlare tra loro, ringraziando Dio che i tempi fossero cambiati, che di libri di certa gente non se ne poteva più. Tondi non seguì il dibattito fino in fondo. Sopraffatto da un senso di rabbia misto a panico, spense il computer. Se ne tenne lontano per una settimana intera, durante la quale rifletté sull'accaduto. Nei primi giorni frustrazione e disgusto prevalsero. Non faceva che ripetersi quanto pessima fosse stata l'idea di dare ascolto a Esquilino, la presunzione fatta persona. Si coricava con il fermo proposito di scollegare tutto, gettare il computer nel cassonetto più vicino. Al mattino, però, la risolutezza della sera prima veniva travolta dalla luce del sole. Il computer restava al suo posto, ancora spento, ma al suo posto. A poco emersero altri pensieri. Il dolore alla memoria più corta della tentazione. E Tondi era tentato. Guardava il monitor spento e lo prendeva un disagio strano. C'era un che di stonato nel fatto che quel monitor non irradiasse la sua sfrigolante luce elettronica. Uno spreco contro natura. Ripensò allora a Panorama nel suo complesso, accantonando la gogna di cui era stato oggetto. E ripensò a Loretta Buia. Dovette darle ragione. Il minuscolo mondo letterario per il quale aveva vissuto, una comunità dalla spropositata considerazione di sé benché ignorata dai più, aveva meritato di soccombere, spazzata via dall'arroganza di credersi testimone del mondo, custode di valori millenari, cuore dell'umanità. Aveva proprio ragione la Buia. Mancavano di qualunque minimo senso del ridicolo. Per troppo tempo, a lui e alle persone come lui, era sfuggita una verità più in bella vista di una lettera in un posacarte. Ebbe dunque la seguente illuminazione. Non era morta la letteratura. Erano morti loro, i letterati. La letteratura esisteva ancora, ma in una forma nuova, non più cartacea, non più scritta per essere letta. In un certo senso era tornata all'oralità. Un'oralità diversa, non più fatta di voce per essere ascoltata, e tuttavia in grado di parlare un linguaggio dei sensi, il verbo dell'organo dominante, l'organo della vista. Le parole e le cose che vedeva scorrere su panorama non erano forse un racconto in continuo rifacimento? In quel piacere spasmodico di osservare le vite degli altri, non si realizzava forse la sua idea di letteratura, origliare e sbirciare? E quelle lotte di insulti, quello spietato denigrare, quella sete di annientare l'altro, quelle crudeltà dal sapore quasi primitivo, non erano forse una forma di epica, una nuova guerra di Troia? Era folle pensare a quel modo. Può darsi. Forse, anziché buia, era Fedro ad avere ragione. Forse Tondi aveva veduto troppo e perso il senno. Ma se si guardava attorno, vedeva pareti di libri che non poteva più leggere. La sua casa, una casa niente affatto piccola per gli standard del tempo, era ingombra di oggetti inutili. C'era spazio soltanto per loro e poco altro. Non era quella la vera follia? Le persone avevano smesso di gravarsi di oggetti. Conducevano esistenze agili e leggere. Vivevano in piccoli ambienti arredati col minimo indispensabile e se avevano bisogno di qualcosa, di qualunque cosa, prendevano il loro dispositivo luminoso e si connettevano. Se ripensava quando calcava i palcoscenici della nazione, seduto sul divano sul quale anche adesso sedeva, Tondi faceva una smorfia strana e scuoteva il capo come l'aveva scosso Maddalena l'ultima volta. Non si capacitava di essersi prestato a una commedia simile. Quanto sarà apparso ridicolo agli occhi delle persone dotate di buonsenso? E quanto erano ridicole le persone che assistevano mute a quel penoso spettacolo? Ripensò alla chiusura dell'ultima libreria in città. Fuori del negozio si erano radunate alcune persone di quel tempo, non tante, una decina al massimo. Era sera, una fredda sera di fine anno. Si trattennero fino a quando la saracinesca non si abbassò per sempre. Davanti al bandone sporco, qualcuno estrasse uno smartphone e cominciò a digitare. Era il tipico intellettuale di allora, il tipico lettore forte, trasandato, spettinato e anche un po' sporco, un mezzo poveraccio. Tondi lo osservò senza un pensiero preciso in testa e mentre lo osservava, qualcuno al suo fianco sussurrò: "Troppo è durata". Tondi si voltò e vide la sagoma di una persona più anziana di lui allontanarsi nella notte. Era di spalle, ingobbito dentro un pesante giaccone, ma lo riconobbe. Si chiamava Francesco Pecoraro. Aveva scritto un romanzo, una specie di memoriale, aspro e marmoreo come un tempio dorico. Sul momento Tondi preferì non capire il senso di quelle parole, ma tutto gli era chiaro adesso. La commedia si era replicata per anni. Era passato da un libro all'altro, da una lettura all'altra, soltanto per poter passare da un giorno all'altro. Aveva ragione anche Pecoraro. Troppo era durata. Così pensando, riaccese il computer. Galatea Ranzi ha letto Panorama di Tommaso Pincio, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.